pace. A cosa ti ben mio? Che tu piace in te, femmina, che sposa di buon cuore si mi rama lì. Che a te porge un amante in pelle dal suo amore.